una prima analisi che noi abbiamo concluso venerdì scorso su cosa è successo la scorsa settimana nelle aziende rispetto a effetti della situazione internazionale sulle aziende del nostro settore a bordo. Ora, noi abbiamo 29 aziende in cui il sindacato è in una situazione di preoccupazione o allarme. A volte segnalatoci dall'azienda, altro invece è la preoccupazione che raccogliamo dai lavoratori e dai delegati. In queste 29 aziende sono occupati 6.700 addetti. A oggi 8 aziende hanno avviato la procedura di richiesta di cassa integrazione, non sempre collocando già i lavoratori in cassa. Hanno avviato la procedura a volte preventivamente, a volte per precauzione. Hanno chiesto la cassa integrazione per 1.050 addetti. Quindi 1.050 addetti a Bologna sono oggi coinvolti in procedure di cassa integrazione chieste per conseguenze della situazione internazionale. 7 aziende, non sono quelle 8, quindi ulteriori, sono invece in una fase di smaltimento ferie, smaltimento permessi, recupero flessibilità, ma stanno gestendo lo scarico produttivo o le difficoltà produttive non avendo ancora aperto il ricorso agli ammortizzatori sociali. E qui ci sono 500 lavoratori coinvolti in questi, diciamo così, smaltimento ferie o recupero flessibilità. E c'è anche un rischio che ci viene segnalato di alcune aziende che rischiano di non rinnovare i contratti di somministrazione alla scadenza degli interinati. Quindi vedete, se sommate 8 e 17 fa 15. Le altre 14 aziende sono aziende dove azienda e sindacato sono in preoccupazione, ma ancora non c'è un intervento diretto con una conseguenza sui lavoratori. Abbiamo provato a dividere 3 ragioni macro della situazione che si scarica sulle imprese e sui lavoratori. La prima è la difficoltà della filiera della fornitura, cioè non arrivano i componenti perché erano stabilimenti in Ucraina oppure perché c'è una criticità nei sistemi di approvvigionamento. Questi sono 15 aziende delle 29 in cui questa è la ragione. Il secondo invece è l'aumento del costo della materia prima e dell'energia. 9 aziende abbiamo la consapevolezza che quello sia l'elemento. Alcune volte te lo dicono al tavolo, altre sono i delegati che considerano che quello sia l'elemento. Terzo è invece la Russia come mercato di destinazione finale del prodotto. E sono 7. Secondo me oggi l'impatto è assolutamente limitato. Molte di queste richieste di cassa integrazioni non sono direttamente applicate, quindi sono preventive. Così come l'impressione che noi abbiamo è che a oggi gli ordini non siano saltati, non siano persi. Ci sia un tentativo di agganciare, magari facendo oggi uno scarico lavorativo, agganciare, quindi realizzare gli ordini, non appena arriveranno i componenti o il mercato si riprende, quindi di non perdere quella slancio della ripresa che c'è. Quindi c'è da capire nelle prossime settimane se questi numeri si allargheranno o se invece ci sarà una situazione in cui le filiere della fornitura, della componentistica si riorganizzeranno come in altre occasioni. Ormai cominciamo a capire che ci sono alcuni settori che sono particolarmente esposti alle difficoltà delle catene globali di fornitura. Sicuramente automotive, in cui dentro c'è anche il motociclo, è particolarmente esposto. Poi si parla anche del packaging come mercato finale, la Russia di destinazione di alcuni prodotti, meno della filiera della fornitura, in quanto la filiera della fornitura delle aziende del packaging è molto più localizzata nel nostro territorio. A quel punto bisognerà capire, andando avanti nelle settimane e nei mesi, se quelle aziende di fornitura reggeranno o se anche loro dovranno fare i conti con difficoltà di approvvigionamento a loro volta di materia prima e che impatto avranno i costi dell'energia. Quindi io direi oggi una situazione molto limitata come conseguenze negative e anche con l'obiettivo di recuperare quanto perso. Punto di vista nostro è che le difficoltà si affrontano tutti insieme. Abbiamo ancora l'eredità dei cosiddetti comitati Covid aziendali, che sono stati lo strumento per attraversare anche i momenti più difficili della pandemia. Io penso che quell'esperienza lì, che era un'esperienza di partecipazione e coinvolgimento diretto dei lavoratori, dei loro rappresentanti con le imprese, sia lo strumento anche da utilizzare in questa fase per condividere la situazione quasi settimana per settimana a livello delle imprese. E poi ovviamente i temi generali sono quelli posti da Maurizio Landini anche in questi giorni: spingere sull'acceleratore sulla transizione energetica e su colmare il ritardo che abbiamo sulle rinnovabili, sicuramente non scelte di retroguardia su carbone, fossile, trivellazioni, eccetera.